America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, il giorno dopo la sparatoria di Ferguson, questa volta sono stati due poliziotti ad essere colpiti. Beh, l'America riflette su queste continue tensioni razziali. Simbolicamente, devo dire, una settimana abbiamo avuto alti e bassi enormi, perché solo pochi giorni fa c'era Selma, di cui vi ho raccontato, e oggi eccoci qui di nuovo a parlare di tensioni razziali. Sentiamo John Belmar, capo della polizia della contea di St. Louis, che ha supervisione anche su Ferguson. I would have to make an assumption right now that based on the fact that these officers were standing together and there were several officers standing right there together when this happened, that these were shots that were parallel to the ground, not up in the air or not at, they weren't skip shots. And I would have to make an assumption that these shots were directed exactly at my police officers. Belmar, tuttavia, ha spiegato che la polizia, i suoi poliziotti, sono stati oggetto di un'imboscata pianificata, un agguato vero e proprio dal quale praticamente è impossibile difendersi, ed ha lanciato un avvertimento, devo dire, forse un po' imprudente, forse eccessivo, perché non è chiaro che ci sia una pianificazione nazionale, ma anche ai suoi colleghi a livello nazionale negli Stati Uniti, cioè state attenti perché cose di questo genere possono succedere. Purtroppo c'è un'atmosfera avvelenata che rende un episodio di questo genere possibile. Ecco, come si è sviluppata la vicenda di Ferguson? Beh, c'è stata una piccola dimostrazione, devo dire, perché erano una cinquantina, una sessantina dei dimostranti, dopo che sono state annunciate le dimissioni di Jackson, che era il capo della polizia che supervisionava, diciamo così, tutto il post-omicidio, assassinio, diciamo, di Michael Brown, che è avvenuto l'anno scorso. Poi c'è stata la soluzione di Darren Wilson, che era il poliziotto che aveva colpito Brown, non è stato perseguito dalla polizia, le dimostrazioni successive, questo lo ricorderete, e gli incidenti violentissimi di Ferguson. Ecco, questo è il contesto d'insieme. Jackson non aveva dato le dimissioni, c'è stato un rapporto da parte del Dipartimento della Giustizia firmato da Eric Holder, che è uscito due giorni fa, il quale rapporto attaccava violentemente la polizia di Ferguson, attaccava il capo della polizia, diceva che c'erano delle discriminazioni razziali nei confronti dei neri. Ecco, a quel punto Jackson ha dato le dimissioni, il capo della polizia locale, e la sera stessa c'è stata questa dimostrazione, che era partita come una dimostrazione, diciamo così, di giubilo, di felicitazione, perché finalmente c'erano state queste dimissioni, ma anche di richiesta di altre dimissioni, di altri personaggi che erano stati in qualche modo coinvolti negli incidenti dell'estate scorsa. A quel punto l'incidente, il dramma. Due colpi partono da una collinetta a un centinaio di metri dal commissariato di polizia dove c'erano le dimostrazioni, ed era evidentemente una persona appostata in attesa e pronta a colpire. Non è chiaro se con un fucile o con una pistola, perché era piuttosto lontano, ma da lì ha mirato per colpire i due poliziotti. Uno è stato ferito di striscio alla spalla, l'altro è stato colpito alla faccia, il proiettile gli ha perforato la guancia e si è poi conficcato vicino all'orecchio. Per fortuna non è stata una ferita grave, i due sono stati dimessi. Sì, entrambi. Resta lo shock, però, che una dimostrazione pacifica si trasforma in un attacco armato contro il commissariato della polizia. And we have some breaking news out of Ferguson. Our crew at the scene has exclusive details about a person taken in for questioning in the shooting of two police officers late last night. Ecco, avete sentito gli ultimi dispacci news, ci raccontano che la polizia ha fermato e sta interrogando alcuni sospetti per il ferimento di questi due agenti a Ferguson. Gli agenti hanno prelevato questi sospetti in un'abitazione della cittadina del Missouri, a Ferguson, molto vicino, a quattro isolati proprio dal commissariato. Questo ce l'ha detto Brian Shellman, che è il portavoce della polizia. What happened in Ferguson may not be unique, but it's no longer endemic. It's no longer sanctioned by law or by custom. And before the civil rights movement, it most surely was. Ecco, il presidente Barack Obama, lo avete sentito, parlava sabato scorso in occasione della ricorrenza di Selma. La marcia fu il 7 marzo 1965, una marcia per rivendicare i diritti civili, il diritto al voto, che si concluse poi in un bagno di sangue, in bloody sangue. Ecco, proprio in quell'occasione Barack Obama parlato di Ferguson e ha detto: mi rifiuto di ammettere che non sia cambiato niente da allora. Ciò che è accaduto a Ferguson forse non è stato un fatto isolato, però non si tratta più di un comportamento endemico legittimato dal costume e dalle leggi, cosa che poteva dirsi prima della nascita del movimento per i diritti civili. Ecco, Barack Obama ha detto: non si è trattato forse di un episodio isolato. È vero, abbiamo avuto un 2014 violentissimo, ricordiamolo, 17 luglio 2014, Eric Garner viene asfissiato a Staten Island da un poliziotto che lo acchiappa per la gola, lui non aveva armi, non era armato ed era assolutamente innocuo. 9 agosto 2014, appunto, Mike Brown a Ferguson viene ucciso per strada. Il 21 novembre a New York a Kai Gurley viene ucciso accidentalmente per le scale del suo palazzo da poliziotti in pattuglia. Insomma, non è normale che ci siano dei poliziotti in pattuglia in un palazzo. Il 28 novembre un ragazzino a Cleveland, 12 anni, Tammy Rice, viene ucciso dalla polizia perché giocava con una pistola giocattolo. 20 dicembre il contrario, a questo punto esplode la rabbia perché nel frattempo i grand jury hanno assolto i colpevoli, uccisione di Eric Garner e Mike Brown, e dunque questo fanatico arriva a New York e uccide due poliziotti a freddo. 8 marzo Tony Robinson, 19 anni, ucciso in casa dalla polizia a Madison, Wisconsin, quasi contemporaneamente al momento in cui Obama parlava a Selma. 9 marzo di Decatur in Georgia, Anthony Hill, 27 anni, un veterano in congedo, pensate, di missione in Afghanistan, Iraq, viene ucciso da un poliziotto mentre cerca di aggredirlo, era nudo e disarmato, chiaramente instabile, ma forse non c'era bisogno di sparargli. Insomma, quello che è successo a Ferguson l'altro giorno è gravissimo, un'imboscata, un errore, una provocazione. Devo dire, sotto accusa oggi ci sono un po' tutti, il capo della polizia della cittadina, Jackson, che ha rassegnato le dimissioni solo mercoledì, troppo tardi, dicono in molti, sobillatori, gli estremisti professionisti che cercano la provocazione ad ogni costo, ma anche il segretario alla giustizia, Eric Holder, che ha diramato l'altro giorno questo durissimo rapporto della polizia che diceva che c'era una forte discriminazione nei confronti di neri. Questo rapporto aveva costretto alle dimissioni Jackson, ma ha portato anche moltissimo veleno. Così dopo Selma ci ritroviamo a parlare di razzismo in America, di tensioni in America, di certo siamo in un paese scosso, e ci tornano in mente, devo dire, le parole di Martin Luther King quando incontra dopo Selma il padre del diacono Jimmy Lee Jackson, questo giovane ucciso a 27 anni dalla polizia dell'Alabama durante le dimostrazioni. Signor Lee, disse il grande pacifista americano al padre, Dio è stato il primo a piangere. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.